Eccoci con Mario Sesti, autore del documentario La voce di Fantozzi, che sarà presentato al Teatro di Villa Torloni a Roma il prossimo 21 marzo. Mario, ben ritrovato. Grazie a voi. Ce lo racconti un po'? Sì, in realtà è successo tutto in maniera abbastanza accidentale, nel senso che le stesse persone che stavano completando per la prima volta l'audiolibro di Fantozzi con la voce addirittura di Villaggio avevano visto dei film miei precedenti, in particolare uno sullo Sodalla, e mi hanno così chiamato, contattato perché avevano voglia di farne uno che somigliasse a quello proprio su Paolo Villaggio, il che significava naturalmente mettere in pista un'incredibile serie di nomi importanti, perché nel documentario da Dario Fo a Benigni, a Arbore, a Fiorello, insomma tutti hanno qualcosa da dire sul Villaggio e soprattutto su Fantozzi, perché soprattutto per la generazione mia, diciamo, di gente che era adolescente negli anni 70 e che ha passato una parte del proprio liceo facendo sega e portandosi dietro i libri di Fantozzi per poi ridere tutti assieme, è un'esperienza, diciamo così, immemorabile. È pure vero che molti lo conoscono attraverso i suoi film, quindi era l'idea di circumnavigare questa personalità del tutto speciale, che è stato un grandissimo umorista, forse l'unico vero grande umorista, no? Dell'Italia contemporanea, che ha trasformato l'umorismo in letteratura, un grandissimo attore che ha rivoluzionato per esempio le tipologie dei personaggi tipici della televisione come quella del presentatore, no? Il famoso Kranz, e soprattutto ha creato questo personaggio, questa maschera comica, Fantozzi, che ha avuto una popolarità, non credo che ci sia niente che possa vantare una popolarità analoga. Come parlarne? E naturalmente con i mezzi tipici del documentario, quindi mettersi in pista, raccogliere testimonianze. Poi abbiamo fatto una scelta molto particolare, visto che tutti conosciamo i film di Fantozzi a memoria, cioè tutto Fantozzi con le più celebri sequenze dei film su YouTube, quindi sono tutte disponibili. Abbiamo lavorato sull'immagine stessa, su questa icona, no? Perché il caso di dirlo, l'icona di Fantozzi è qualcosa, insomma, voglio dire. Se Andy Warhol fosse stato italiano e fosse stato io, probabilmente insieme a Marilyn Monroe avrebbe fatto anche l'icona, diciamo, le sue celebri stampe, no, serigrafie, eccetera, con Fantozzi. E ci sono due giovani, anzi sì, tre in realtà, Virginia Eleuteri Serpieri, Gianluca Abbate e Annalisa Gorzi, che hanno lavorato su questa immagine producendo qualcosa che era stato in mezzo tra la videoarte, le GIF, no? Le nuove forme di animazioni, per dare vita in questo documentario anche a un piano visuale con il quale si esplora l'immagine stessa di Fantozzi in una particolare maniera. All'inizio c'è stato il libro che ha fatto da apripista. Sì, a dirla tutta, noi ricostruiamo un po' questa storia. Appunto, Fantozzi è iniziato con una rubrica sull'Europeo a parlare di Fantozzi e di Fracchia. Sì. Poi, per l'appunto, questo già alla fine degli anni 60, addirittura nel 68. Poi, negli anni 70 c'è stato il libro che ha venduto milioni di copie, quindi un successo per un'editoria come quella italiana, che non è mai stata, insomma, particolarmente vivace come quelli di altri paesi, come quella russa o quella americana, veramente straordinario. E poi è arrivato cinema, e grazie anche alle mani di un grandissimo regista come Luciano Salce, è nata questa comicità che poi è la cosa da raccontare che io ho capito facendo il film, perché poi io sono fondamentalmente un critico cinematografico, quindi ho bisogno anch'io di capire mentre faccio le cose, è che dove lui è arrivato ha un po' rivoluzionato tutto come un calzino, l'ha rivoltato, quindi non esistevano che facessero ridere, no? Sì. Come quelli di Fantozzi. Arrivare in televisione ha cambiato completamente le tipologie, no? C'è un presentatore che maltratta gli ospiti, che era una cosa inaudita all'epoca, e poi questa comicità che è somigliare a quella del muto, che è una comicità anche molto d'azione, no? Lì Sì, anche l'evoluzione è molto importante nei Riparetti, che è un regista particolarmente dotato, e naturalmente c'è anche lui che racconta un po' la storia. E poi racconta soprattutto la storia della voce di Fantozzi. Perché abbiamo chiamato così? perché ci siamo resi conto che tutte le volte che intervistavamo delle persone, anche intellettuali, ci sta anche Cristiano, uno scrittore saggista come Christian Raimo, un filosofo come Domenico De Masi, poi tutti a un certo punto iniziavano a fare la voce di Fantozzi, che si chiama La voce lupata, ce l'ha raccontato Neri Parenti. Si faceva alla fine dei film perché fare la voce lupata in questa maniera, cioè, comunque produce una raucedine e quindi però non potevi poi doppiare il resto del film, quindi lo faceva direttamente Villaggio. Ma tutti noi, no? Anche te una volta hai imitato Fantozzi facendo questa voce, parlando magari delle tue disavventure, perché l'idea è che in fondo poi Fantozzi ha avuto questa straordinaria fortuna perché funziona un po' da capro espiatorio. Sì. Da quando c'è lui, come diceva Villaggio, il grande terapeuta, no? Sì. Tutto ciò, cioè nessuno può fare peggio di Fantozzi. Nella nostra vita abbiamo questa cosa, cioè ci può andare malissimo, no? Ma nessuno può raggiungere la sfiga di Fantozzi. Da quando c'è lui, non possiamo fare, no? Sì. Peggio di lui è impossibile. Quindi in qualche maniera, no, abbiamo passato la nostra vita pensando di non essere abbastanza adeguati nel lavoro, nei sentimenti, nei rapporti familiari, no? Però poi abbiamo scoperto che c'era qualcuno che faceva peggio di noi, e quindi ci siamo sentiti enormemente sollevati. Quindi è Sì. veramente come funziona con i capri espiatori nella preistoria. Quindi lui ha preso tutta quanta la sfiga che c'era in giro, l'ha concentrata su di sé, e da quel momento tutto ciò che accade a noi sembra in qualche maniera quasi una barzelletta, ecco, Senti diciamo così. Mario, la rubrica sul giornale aveva già in nuce tutte le caratteristiche? Diciamo, il personaggio era tratteggiato in maniera abbastanza definitiva. Poi, come racconta lo stesso Villaggio, perché poi ecco una cosa del film, naturalmente, c'è l'ultima intervista. L'ultima intervista che lui ha fatto è perché durante la lavorazione noi stavamo completando il film, la malattia insomma, che lui fronteggiava da diversi anni si è deteriorata e peggiorata in maniera così, cruciale, definitiva, e lui appunto si è spento a luglio, e tra l'altro noi il film l'avevamo quasi completato, ci mancavano un po' di testimonianze. Venezia ce l'ha chiesto, siamo andati a Venezia, infatti ci sono ancora alcune testimonianze che non abbiamo messo per la verità, tipo Abbandono, che abbiamo fatto ma non siamo ancora riusciti a inserire. E per appunto c'è quest'ultima intervista in Villaggio, insomma, non cessa, diciamo così, di fronteggiare questo imminente pericolo appunto della morte con la sua celebre sarcasmo, il suo cinismo. Però credo che si veda anche un Villaggio diverso. E poi c'è anche nel film parte dell'intervista che io ho fatto, diciamo, a metà intorno agli anni 2000, quando mi avevano chiesta per l'edizione DVD dei film di Fantozzi, e vedere la differenza anche, insomma, di quegli anni, credo che sia parte interessante della storia che racconta il film intorno a questo personaggio. Però per riprendere la tua domanda, c'era qua, il personaggio era quello, la lingua poi, come spiega appunto Villaggio anche in parte di questa intervista, poi si è fatta sempre più diretta, cioè, nel senso che a volte c'era una discussione quasi fumettistica, lui appunto tagliava i verbi, no? Fantozzi si alzò capocciata tremenda, ecco, ha anche maturato, diciamo, una capacità, diciamo, quasi appunto fumettistica, cinematografica, di descrivere, quindi per certi versi forse il cinema che lui ha praticato ha anche un po' influenzato il suo stile di scrittura, ecco, è vero che è iniziato il romanzo, ma il cinema ha anche contribuito a sagomare, a disegnare la scena della scrittura probabilmente. Sì. Mario, dicevi prima della sua funzione di capro espiatorio. Ecco, una comicità caratterizzata anche da una crudeltà per certi versi. Ecco, a tuo avviso, quali sono stati i meccanismi che l'hanno reso così popolare nel raccontare quell'Italia impiegatizia? Innanzitutto svelare quel mondo, come racconta Domenico De Masi, che è un giorno molto importante del film, no? Prima di Fantozzi la letteratura, ma anche la sociologia, si è occupato soprattutto del mondo operaio. La visibilità di questo universo impiegatista, un universo fondato anche da meccanismi, come tu dici, grande crudeltà, di repressione, di rapporti di potere spietati, no? Io credo che da questo punto di vista l'immaginario che ha creato Villaggio sia stato abbastanza distruttivo, proprio anche per far diventare l'impiegato un soggetto della storia, no? Renderlo visibile proprio come personaggio. Quanto alla crudeltà, è lo stesso Villaggio che appunto, no? Io gli chiedo, ma qual è la cosa più divertente secondo te che Fantozzi ha fatto? Dice, ma secondo me la cosa più divertente è il momento in cui durante la partita diciamo dei campioni del mondo, no? Lui viene chiamato per vedere la corazzata di Occhio. È una delle cose più triste e crudeli che esistono, ma fa ridere. Lui stesso si chiede perché le cose crudeli fanno ridere, non lo so, diciamo, no? Però questo meccanismo è un meccanismo che ha qualcosa di profondo, che appartiene anche appunto al senso di liberazione che ci prende quando le disgrazie cambiano a qualcun altro, quindi c'è anche qualcosa probabilmente di poco nobile in tutto questo, no? Sì. L'idea di essere per l'appunto esorcizzati in tutto ciò di negativo che ci può capitare grazie al fatto che questo viene rappresentato al di fuori di noi, però è un meccanismo che Villaggio ha portato a un potenziamento, ad una perfezione e anche una energia simbolica, no? In cui la risata esplode, ma anche c'è un riverbero profondo di amarezza e forse anche un po' di terrore, no? L'urlo di Fantozzi, no? Fantozzi, no? L'urlo di Fantozzi, no? La martellata, eccetera, fa parte, diciamo così, della gamba della voce di Fantozzi. Mario, per quanto riguarda le informazioni in rete e sul tuo documentario, ci lasci tutti i dati? Nel senso che dunque esiste una pagina che è dedicata su Facebook. Perfetto. Inoltre, per quanto riguarda il documentario stesso, esistono tutte le informazioni sulla pagina del BIPAC, perché è stato in parte finanziato, e naturalmente sulla mia pagina personale, Mario Sesti, Story Department Reload, si trovano tutte le informazioni, anche una raccolta di piccoli video e naturalmente anche delle recensioni. Il film è stato molto ben recensito a Venezia, dove ha avuto un'ottima accoglienza. Allora, ripetiamo l'appuntamento, La voce di Fantozzi di Mario Sesti al Teatro di Villa Torloni a Roma il 21 marzo. Mario, un abbraccio, a risentirci presto. Alle ore 17, ciao. 17, perfetto. Ok. Ciao. Ciao Federico.